con Gaia Russo Frattasi, regista del documentario Scuola in mezzo al mare, al cinema da lunedì 18 febbraio 2019. Gaia, ben trovata. Ce Bentrovati, grazie a tutti. lo descrivi questo lavoro? Sì, certo. Allora, si tratta di un film documentario girato interamente sull'isola di Stromboli. E quest'isola che è così meravigliosamente bella, selvaggia, attira turisti d'estate da tutto il mondo, definita la perla del Mediterraneo. E quello che succede, insomma, che quando finisce l'estate si alza il mare, si alza il vento e la comunità di Stromboli rimane isolata, sperimenta solitudine e isolamento. Quindi la comunità si è un pochettino auto-organizzata, soprattutto per dare delle risposte educative ai ragazzi. E in particolare Carolina appunto ha fondato un'associazione che si chiama Scuola in Mezzo al Mare, con la quale organizza insieme agli altri genitori dei laboratori che sono un po' legati ai saperi antichi dell'isola, quindi ecco, laboratori di ceramica, di pesca, di vulcanologia. Io sono rimasta affascinata da questa storia perché parla di una connessione tra l'uomo e la natura, perché l'ho vista insomma, svolgersi davanti ai miei occhi e quindi ho deciso di raccontarla. Quante sono le persone che rimangono l'inverno come abitanti fissi? Ma sono 350 o 400 circa, di cui circa 40 bambini e ragazzi. Come funziona questa scuola che hanno messo su? Scuola in Mezzo al Mare è appunto il nome dell'associazione e Carolina organizza insieme agli altri genitori questi laboratori durante l'inverno, quindi a cadenza variabile perché appunto sempre molto dipendente dalle condizioni meteorologiche. Hanno una sede che è nei pressi della chiesa di Stromboli, all'interno della quale c'è anche una biblioteca molto bella, una biblioteca in mezzo al mare, che ha ricevuto negli anni molte donazioni, quindi che dove è possibile leggere, aprire la propria mente, insomma, fare anche dei viaggi, dei sogni, è un posto molto accogliente per questi ragazzi. Tu hai seguito, questa associazione in una intera stagione invernale? L'ho seguita sia durante la stagione invernale che durante la primavera e poi anche durante l'estate. Veramente al contrario, nel senso che le riprese sono state fatte prima durante la stagione estiva, poi in inverno e poi in primavera. E durante le 3 stagioni, proprio perché siccome è così tanto in qualche modo dipendente dalla natura, mi interessava vedere che cosa cambiava, come cambiava il volto dell'isola durante tutto l'anno. Quali sono gli elementi che ti hanno interessato di tutta questa esperienza? Allora, sicuramente mi è interessato appunto questa dialettica che c'è tra un pochettino una sorta di voglia, di desiderio di ritorno alla natura e questo desiderio di invece istruirsi per potersi magari emancipare e cercare una realizzazione di tipo differente. È una dialettica che ho trovato molto viva, io non ho una risposta, però questo film mi ha consentito di in qualche modo di porre la domanda e anche di chiarirla a me stessa. E poi mi è interessato la metodologia stessa di riprese che abbiamo usato, che è stata, io ho provato insomma a mutuarla dalla non scuola di cinema di cui sono stata allieva, che è il corso di cinema di Ermann Olmi. E questa metodologia di ripresa porta molto a contatto con le persone, diciamo in un modo mimetico. Quindi noi abbiamo vissuto tutti gli effetti insieme alle persone dell'isola a lungo e abbiamo cercato poi di tirar fuori da quello che vedevamo gli elementi salienti senza utilizzare interviste e senza utilizzare voce off. Quindi in qualche modo solo con lo sguardo. E questo è stato un processo per me complesso e quindi mi è interessato. Allora, è al cinema dal 18 febbraio con un tour, immagino, di proiezioni alla tua presenza. Allora, il film è distribuito da Atataya, che è una distribuzione indipendente, quindi organizza queste proiezioni in Italia, che sono partite dalla Sicilia, perché è il luogo di origine del film, a Palermo e Catania sono già state, sono andate bene, adesso stiamo risalendo d'Italia. Il 28 sarà appunto a Roma, all'Apollo 11, il 6 marzo al Cinema Beltrade a Milano, l'8 marzo al Cinema Massimo di Torino all'interno del Piemonte Movie Festival, e il 10 al Cinema La Compagnia di Firenze e poi l'11 a Lecce. Io certo cercherò di accompagnare il film e spero di poter parlare con gli spettatori. E poi niente, tutte le informazioni, le altre informazioni si possono trovare sulle pagine Facebook di Mobi Film e di Atataya, che sono appunto le case di produzione e distribuzione del film. Benissimo, e allora ricordiamo il documentario Scuola in mezzo al mare al cinema da lunedì 18 febbraio 2019 e in tour in tutta Italia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Gaia Russo Frattasi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie a tutti, grazie.